50 domande su Gesù. Chi fu Giuseppe di Arimatea? Giuseppe di Arimatea viene ricordato nei quattro Vangeli nel contesto della passione e della morte di Gesù. Era nativo di Arimatea, un paese di Giuda, l'attuale Rentis, a 10 km a nord-est di Lidda, probabilmente il luogo di nascita di Samuele. Uomo ricco e membro illustre del Sinedrio, possedeva un sepolcro nuovo scavato nella roccia, nei pressi del Golgota, in Gerusalemme. Era discepolo di Gesù, però, come Nicodemo, lo teneva nascosto per timore delle autorità giudee. Di lui Luca dice che aspettava il regno di Dio e che non aveva dato il suo consenso alla condanna di Gesù da parte del Sinedrio. Nei momenti successivi alla crocifissione non teme di dare la faccia e chiede a Pilato il corpo di Gesù per seppellirlo. Nel Vangelo di Pietro, un apocrifo del secolo II, Giuseppe fa questa richiesta ancora prima della crocifissione. Ottenuto il permesso dal prefetto, depone il corpo di Gesù dalla croce, lo avvolge in un lenzuolo pulito e con l'aiuto di Nicodemo lo mette nel sepolcro di sua proprietà. Dopo averlo rinchiuso con una grande pietra, se ne vanno. Questi i dati storici. A partire dal secolo IV sorsero leggende di carattere fantastico, in cui veniva esaltata la figura di Giuseppe. In un apocrifo del V secolo, gli Atti di Pilato, chiamato anche Vangelo di Nicodemo, si narra che i giudei non approvavano il comportamento di Giuseppe e Nicodemo a favore di Gesù e che per questo motivo Giuseppe venne messo in carcere. Liberato miracolosamente, appare ad Arimatea. Da lì ritorna a Gerusalemme e racconta come è stato liberato da Gesù. Più favolosa tuttavia è l'opera Vindicta Salvatoris, secolo IV probabilmente, che ebbe una grande diffusione in Inghilterra e in Aquitania. In questo libro si narra la marcia di Tito al comando delle sue legioni per vendicare la morte di Gesù. In seguito alla conquista di Gerusalemme, trova in una torre Giuseppe, dove era stato rinchiuso perché morisse di fame, cosa che non accadde perché fu alimentato da un cibo speciale disceso dal cielo. Nei secoli XI-XIII la leggenda su Giuseppe di Arimatea fu colorita di nuovi dettagli nelle isole britanniche e in Francia, innestandosi nel ciclo del Santo Graal e del Re Artù. Secondo una di queste leggende, Giuseppe lavò il corpo di Gesù e raccolse l'acqua e il sangue in un recipiente. Dopo, Giuseppe e Nicodemo si divisero il suo contenuto. Si veda la domanda: che cos'è il Santo Graal? Altre leggende dicono che Giuseppe, portando con sé queste reliquie, evangelizzò la Francia. Alcuni racconti dicono che sarebbe sbarcato a Marsiglia con Marta, Maria e Lazzaro. La Spagna, dove San Giacomo lo avrebbe consacrato vescovo, il Portogallo e l'Inghilterra. In quest'ultima regione la figura di Giuseppe divenne molto popolare. La leggenda lo fa il fondatore della prima chiesa sul suolo britannico, in Glastonbury Tor, dove, mentre stava dormendo, dal suo bastone spuntarono radici e fiori. Glastonbury Abbey divenne un luogo di pellegrinaggio fino a che fu chiusa in seguito alla riforma nel 1539. In Francia, una leggenda del secolo IX riferisce che il patriarca Fortunato di Gerusalemme, ai tempi di Carlo Magno, fuggì in Occidente portandosi le ossa di Giuseppe di Arimatea fino ad arrivare al monastero di Moyenmoutier, di cui divenne abate. Tutte queste leggende, senza alcun fondamento storico, mostrano l'importanza che si dava ai primi discepoli di Gesù. L'origine di questi racconti può anche essere legata a polemiche da parte di alcune regioni, come Inghilterra e Francia, nei confronti di Roma. Si tratterebbe del tentativo di dimostrare che determinate regioni erano state evangelizzate da alcuni discepoli di Gesù e non dai missionari di Roma. Tutto ciò, comunque, niente a che vedere con la verità storica.